24. Marciavano lungo sentieri nascosti tra gli alberi, guidati dalla donna più potente del villaggio. Si fidavano di lei, le loro vite erano nelle sue mani. Leggevano segni dove un bianco non avrebbe visto niente, raccoglievano i frutti del bosco, si fermavano quando i più deboli rimanevano senza fiato. Nelle radure il caldo ingialliva l'erba, ma sotto il tetto di rami l'aria era fresca e cespugli soffici. Del sole restavano solo spruzzi luminosi, terra coperta di lentiggini d'oro. Da quanto tempo camminavano? La sera del terzo giorno avevano incontrato un cacciatore tuscarora. Era sbucato da una fossa nell'erba, aveva salutato il convoglio alzando le braccia, la voce impastata di sonno. Molly lo conosceva, era stato all'emporio diverse volte, a scambiare pelli con altre merci. «Non andare a Onondaga, Degonwadonti, è una città di spettri». «Cos'è accaduto?» Il vaiolo è passato di corpo in corpo, rapido come una freccia. Strade e case sono piene di morti, mosche e formiche li ricoprono. Gli altri sono andati a ovest. Un mormorio di sgomento attraversò il popolo di Canaioarie. «Che ne è del fuoco sacro?» domandò Molly. «Spento», rispose il cacciatore. «I guardiani sono morti». «Non andare a Onondaga, Molly Brent. Prosegui sulla tua via». Onondaga abbandonata. Il fuoco sacro estinto dopo 5.000 lune, un crepaccio largo e profondo, ingoiava la storia delle sei nazioni. «Come sai tutto questo? Sei stato là?» chiese qualcuno. «No, ma credo a chi me l'ha raccontato, e anche voi crederete a me. Continuate a camminare verso ovest, e già all'alba sentirete il puzzo della morte. Non fermatevi». Il cacciatore aveva ragione. Quando il cielo tra i rami si fece più chiaro, il lezzo dolciastro li aggredì all'improvviso. Fu come un agguato. Dove gli alberi diradavano, una brezza pestifera fendette la foresta, portando a nasi e bocche notizie di corpi gonfi, esalazioni, vermi che succhiavano carne marcia, la milizia strisciante di vaiolo. Non si avvicinarono alla città poiché non volevano dormire accanto allo scempio. Marciarono finché il sole non fu alto. Il sonno calò, ma li prese a fatica, dopo molti assalti scomposti. Molly vegliò. La marcia doveva proseguire fino a Fort Niagara, con donne, vecchi e bambini, alcuni piccolissimi. Chiese a Warraghyllaghe di darle la forza e di mandarle un segno. Nel pomeriggio, sul sentiero che avevano appena percorso, sentì passi e spezzarsi di rami. Afferrò un fucile e scattò in piedi. Dal bosco uscirono una donna e due bambine. Erano Oneida. Videro Molly e trasalirono. La donna si chinò e fece scudo alle bimbe col proprio corpo. «Non sparare! Noi ti conosciamo, tu sei Molly Brent di Canaioarie. Stiamo andando a Canandaigua, dai nostri parenti Seneca. Abbiamo paura della guerra. Non abbiamo niente contro i Mohawk, tu sei nostra sorella maggiore». Molly abbassò l'arma. Aveva chiesto un segno e forse l'aveva avuto. «Andiamo a Fort Niagara, potete viaggiare con noi». La donna si chiamava Aleidis, le sue figlie Mirte e Mariolin. Aleidis aveva appreso della fine di Onondaga da un missionario evangelico, poco dopo aver lasciato Kanawarogare. A sentire lui, il fuoco sacro non si era estinto per via dell'epidemia. I custodi avevano deciso di spegnerlo finché Mohawk e Oneida non avessero smesso di uccidersi tra loro. Molly aveva molti dubbi su quella versione dei fatti, ma la prese come parte del segno inviato da William. Le sei nazioni dovevano proseguire insieme. Ripartirono al tramonto. Molly guidò il convoglio verso Fort Niagara, verso Thayendanegea, lasciando la morte alle spalle.